solo dettagli, brutti dettagli, bei dettagli. A letto bisogno dell'acqua, così poi nei sogni c'è il mare. Sott'acqua mi piace nuotare.